C'è sempre penombra qui. Però posso scrivere quanto voglio ed è più facile lasciarsi andare. La nostalgia. Forse è un viaggio nella macchina del tempo. Si torna ai luoghi, in via Garibaldi 75. Quando ero bambina la strada era lastricata con grandi pietre bianche. Molti incanti si sono persi. Molti sono rimasti. Mi sono piegata volentieri al mio destino. Testimone, scriba, maestra che annota e registra, dalle prime noterelle scolastiche agli ultimi romanzi lasciati nel cassetto. D'altra parte, con un nome come il mio. Mia madre, durante la gravidanza, lesse un libro di Massimo D'Azeglio. Il personaggio di un romanzo. Potevo scegliere un altro destino. Leggevo, scrivevo e tenevo nel cassetto, sprofondata in provincia, ignota a tutti, anche a me stessa. A 17 anni già insegnavo in paesini sperduti, maestra come mia madre. Si torna ai luoghi. Dal balcone osservavo il casamento di fronte, i prospetti rientranti, il giardino, il cancello, la fontanella barocca con la conchiglia. Qui ho ambientato l'imputata. Dall'alto dei tre balconcini si godeva una bella vista della città. Una cascata di tetti rugginosi che parevano accavallarsi. Invece in mezzo c'era un labirinto di sdruccioli e di chiassetti. Del guasto, delle streghe, delle stimmatine, dei poeti. Sempre così con questa città. Odio e amore. Mescolati, inestricabili. Aperture dei bassi a sesto acuto, sormontate da stemmi corrosi, simbologia misteriosa e dimenticata. L'elmo, lo scudo, un'ala in volo trafitta da una freccia, leoni duecenteschi all'ingresso di una chiesetta, il dorso lisciato ad avorio dalle cavalcate dei bambini, gli acanti smozzicati dal tempo e dalle sassaiole. Tutte le città hanno un'anima. Conoscete quella della vostra città? Se ve ne andate a zonzo, addentrandovi per straducce e vicoli, vi accorgerete subito che non è una conoscenza facile. Ad un tratto vi sentirete con il fiato grosso. Già, perché non si fa altro che scendere e salire. Siamo insomma in montagna anche dentro la città. Si scoprono vicoletti a groppa d'asino, un coccio con geranio che fa una macchia rossa. Mi capitò per caso di scoprire sulla facciata di una casetta medievale con bifore questo giglio nero in ferro battuto verso lo spigolo di destra, stilizzato come il giglio fiorentino. E poi altri, più ricchi e più numerosi, in alto, di qua e di là degli spigoli, a coppie, con petali spiegati, nel mezzo il pistillo con capocchia, secondo l'importanza della casa o del palazzo. Vi stanno da oltre due secoli, dal terremoto del 1703. Ma bisogna alzare gli occhi, altrimenti non si vedono i fiori del terremoto, nati sopra una terra ballerina. Raccontare la mia vita. Ma io non so dir nulla per lettera e nemmeno per voce. So solo narrare con distacco. Sala Patini, biblioteca. L'imputata venne presentato da Olga Lombardi. Sala gremita, scrisse Antonio Silveri, un omaggio di fiori e d'affetto. Eletta tra i 12 consiglieri della Dante Aquilana, Bonanni, scrittrice, Laudomia, risulta scritto nell'elenco. Ecco che resta di tutto. Le carte. Un mucchio di carta. Pagine di diario, annotazioni sparse. Perché conservarle per tanto tempo? E per chi? Forse solo per me stessa. Del resto il tempo è come l'acqua. Si porta via ogni cosa in polvere. L'infanzia. Ore taciturne accanto al fuoco. In montagna la gente sa guardare all'infinito il linguaggio della fiamma e il vorticare della neve, senza noia. Sarà davvero finito tutto per me. Proprio adesso che stare al mondo mi piaceva. Ero uscita dal fosso e so che tutti possono uscirne e volevo aiutare tutti ad uscirne. Quando prendo la penna il pensiero corre. Volevo raccontare la vita, i profumi, i fiori gialli che nascono sulle scalinate delle nostre chiese, le viola ciocche marroni spuntate nei trafori del rosone, in quel poco terriccio, portate dal vento, quasi espresse dalla pietra. Mi piaceva passeggiare a lungo. Dietro la chiesa salivo e scendevo i gradini tondi di pietra, ripassavo sotto i tre archetti del campanaro. Al castello, dal bastione guardavo le nuvole o il gran sasso, colorato dall'ultima luce del sole pieno di neve. A volte ero quasi felice. Mi portavo nelle tasche i confetti, i cannellini di Sulmona, ricurvi come piccoli fagioli bianchi. Sotto i denti restavano attaccati al filo di cannella. Cannella e vaniglia, i profumi dei dolci. La nuova casa, in via 20 settembre. Di notte brillavano lontano i grappoli di luce dei paesi, la stazione, i treni con lo sbuffo di fumo e sotto scendeva un terreno coltivato a fiori e due casette minuscole, laggiù. Il passaggio a livello con il suo campanello scandiva le mie notti, insonni. Poi la partenza, per Roma. È stato come tagliare il cordone ombelicale. Troppo tardi, come per l'amore. Ho regalato a mia madre libri invece che nipoti. L'unico rimpianto che ho è forse quello di non aver voluto un figlio. Ma anche i libri sono tanti figli che se ne vanno per il mondo. Sono proprio all'ultima storia. Io che ero una di domani. Ma che restino le carte. Ne faccio un pacchetto ben legato, con precise istruzioni da consegnare a... da pubblicare. Forse per un libro si può continuare a vivere. Arrivederci. Laudomia.